radio2pod.rai.it. Radio 2 è davvero imbarazzata nel presentare Così parlò Zap Mangusta, storia della filosofia liofilizzata in pillole per uso strettamente personale. Il filosofo di oggi è un pensatore molto discusso. Per qualcuno un guru da mare. Per altri una sorta di Darth Vader da temere. Altri ancora pensano che sia un finto taumaturgo dello spirito che millanta di togliere dalla tovaglia della vita tutte le macchie di sugo con un semplice starnuto. Quindi non rimane che spalancare i padiglioni di Eustachio per togliersi ogni dubbio. Il suo nome è Martin Heidegger, altrimenti detto Martin Pensatore. Tifosi presunti, il Tamagotchi, i pittori informali, Donald Westlake o Ed McBain e tutti quelli del famigerato 87esimo distretto, che non fanno niente per arrestare i colpevoli ma che lasciano che l'intrigo si sveli davanti ai loro occhi. I luddisti che non amano la tecnologia, Dante, Rick, Hölderlin, Yeats e tutti gli altri poeti in più, Franco Battiato e la sua cura. Martin Heidegger è uno dei pensatori più amati ed odiati di tutto il Novecento. Addirittura? Sì, è angosciato dal trionfo del mondo della tecnica ed è un sublime innovatore linguistico. Beh, un tipo dalle idee chiare. Ostinato anticomunista eppure convinto anti-americano. Può succedere, non è mica obbligatorio fare il tifo per l'uno o per l'altro. Heidegger sarà estraneo a qualsiasi impegno politico, ma finirà rettore di una università nazista ad espellere dall'aula il suo caro vecchio maestro, Husserl. Ok, d'accordo, ritiro tutto. Martin Pensatore lascia dietro di sé un complesso itinerario filosofico, un gran fascino di sistema unito a una fama controversa e allusiva che non convince mai sino in fondo. E perché? Perché, forse perché il prode Martin non smette mai di ricordarci che siamo esseri per la morte e che dobbiamo anticiparla mentalmente nella sua sublime ineluttabilità. È più tardi possibile, non lo aggiunge Martin Pensatore, no? E non parla solo di questo, per fortuna. E meno male. Di che altro parla? Dice che intorno a noi tutto vive e in ogni cosa c'è un po' della nostra vita. E allora? E allora ci suggerisce di prenderci cura di quello che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, perché solo nella cura di ciò che abbiamo è il senso della nostra confusa esistenza. Ha ragione, ve lo ricordaste un po' più spesso voi uomini, eh? Vabbè, dice che la vita è una ricerca continua, alla scoperta dell'essere, un cogliere pienamente le cose anche se l'essere non è come ce lo aspettiamo. Beh, da uno che è dappertutto non è che si può pretendere sempre un servizio di qualità inappuntabile, no? Che diamine, Mangusta, su. Hai ragione. Oh. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Martin Heidegger è il metafisico più bestiale dell'intero Novecento. E ci mancava dopo quel contofioc di Husserl. Tra i creatori di similitudini e di metafore, nel Novecento Heidegger è secondo forse soltanto a Wittgenstein. Primo Wittgenstein, secondo Heidegger. Per scrivere la classifica ci vuole un quarto d'ora e per nominarli in libreria bisogna fidanzarsi con l'addetto e passare mezza giornata con lui a fare lo spelling dei nomi e dei cognomi. Ma no? Perché? Che ci vuole? Martin Heidegger e Ludwig Wittgenstein. Sì, Castello Lulì e Lupululà, dai. La metafora più celebre di Heidegger, però, è quella del linguaggio, che secondo lui è la dimora dove risiede l'essere. Beh, allora è più forte l'altra che afferma che non siamo noi esseri umani che parliamo un linguaggio, ma è l'essere umano che viene parlato dal linguaggio. Brava, ma dove l'hai letta questa? Sabato sono uscita con un assistente della Sapienza. Ah, stavamo ecco. Parlando di filosofia. Sì. Che dici, funzionerà questa volta? Ma bah, se lui ce le mette tutte e due, sì. Tutte e due cosa? Anzitutto la Sapienza, poi pure l'assistenza, se poi c'ha anche molta, ma molta pazienza. Quanto sei critico, però. Perché affrettarsi tanto quando si può scegliere? La pazienza ripaga sempre, infatti adesso te che mi danzi attorno e nella mente come hai fatto non si sa. Non mi importa della verità, Martin Heidegger era un tipo dal temperamento sfuggente, dall'abbigliamento eccentrico, sempre eccessivo, ridondante, perennemente in bilico tra misteriose reclusioni ed eclatanti gesta teatrali. Ho letto che ogni tanto spariva. Sì, e poi ricompariva magicamente. Avrebbe potuto diventare un mago alla David Copperfield, il fondatore di una nuova religione, oppure l'eminenza grigia di qualche tiranno. O più semplicemente un filosofo. Beh, questo mi sembra ovvio. No, dico sì. Mangusta, non è che faceva l'allevatore di polli, no? Era un metafisico. E a proposito, scusa, mi spieghi da dove arriva esattamente questo Heidegger, che fa? Spunta in mezzo alla filosofia così come un fungo. Ma non come un fungo. Nasce nel 1889 a Meskirch, un paesino del Baden, e muore a Württemberg nel 1976. Due posti che, se non vi fosse passato lui, sarebbero stati ignorati persino dalle cartine stradali. E le sai, magari a Baden-Baden sono famosissimi. Sì. Non lo so. Comunque, nasce da padre sacrestano e madre contadina, e la sua è un'infanzia molto triste. E me l'immagino. Al punto che il suo svago principale, pensa, è costituito dalle sere in cui veniva preso a cinghiate. Chissà dal papà. Che spasso, eh? Ecco, a 18 anni, invece di fondare un gruppo gospel e togliersi di mezzo, decide di studiare teologia all'Università di Friburgo, dove il grande Husserl, capostipite dei fenomeni, lo convince a passare alla filosofia fenomenologica. E lì diventa figo. No, fronte aggrottata, guance cadenti, abiti da pagliaccio triste, Martin si laurea nel 1913, ma allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruola volontario. Quindi, siccome buon per lui non è che scoppi proprio di salute, lo rispediscono a casa. Che curiosa coincidenza! A casa che fa? Lui scoppia di rabbia perché si sente rifiutato. Così quasi per ripicca diventa assistente di Husserl all'Università di Friburgo e poi si sposa con Elfrid o Elfride. Con Elfrid o Elfride, a cui ha dispetto dell'orribile nome, lui gli regala due marmocchi fenomenali. Oddio, fenomenali solo in quanto figli di un fenomenologo, no? Vabbè. Perché se sono quelli che ho visto nelle fotografie sono veramente orrendi. Ma che c'entra la gradevolezza fisica? Qui stiamo parlando di metafisica. Ho capito, ma anche l'occhio, no? Nel 1919 Martin lascia la Chiesa Cattolica. E perché? È, diciamo, per incompatibilità reciproca. Ah, ecco. Nel 1920, però, a casa di Husserl, sì? Conosce Jaspers, con cui diventa amico, sino a quando lui non gli chiede l'indirizzo di Hannah Arendt, un'allieva che hanno in comune, che un giorno diventerà molto famosa. Dai, raccontami la storia sentimentale di questi tre capoccioni. Lo sapevo che ti interessava. Ma invece quella te la spiego domani. Ma uffa, eh sì, no. Nel 1923 Heidegger che fa? Prende la cattedra a Marburgo. Certo che tutti questi nomi sono tutti strani, eh. Vabbè, erano posti che si chiamavano così. E in quell'ateneo lui che fa? Comincia a distinguersi per le analisi spregiudicate con cui passa il setaccio. Eraclito, Platone, Aristotele. Tutti filosofi antichi. Ma pure quelli moderni, Kant, Hegel, Schopenhauer. È così bravo, ma così bravo nelle sue lezioni, che viene chiamato il mago di Meskirch. E perché? È perché per la sua irresistibile capacità di ipnotizzare le allieve e di affascinare tutti i suoi interlocutori. Ma cos'era, una specie di Cagliostro? Sai, ci sono dei tipi in giro che incantano la gente, anche se sono bassi, hanno pochi capelli, parlano in continuazione, insomma dovresti sapere. Ok, ti credo sulla parola. E quanto spendeva in media a sera? Ti sembrerà strano, ma Heidegger non spendeva nulla. Allora non ha niente a che vedere con chi pensavo io. In breve, Martin Pensatore, ma chi pensavi? Ti si ritrova circondato da schiere di turgide fans intellettuali disposte ad immolarsi carnalmente pur di ispirare un suo rigo o una frase dei suoi acutissimi pensieri filosofici. Bei tempi. Oggi ti chiedono orologio, macchina, appartamento, un bel assegnuzzo 5 zeri. Beh, 5, scusa 5. Però, tizio, in quanto donna ammetterai che è più vantaggioso, no, per voi. Comunque, c'è Pensatore e Pensatore, tesoro. Fatto sta che Heidegger, a dispetto delle sue simpatie nazionalsocialiste, che avrebbero suggerito un naturale trasporto verso i corpi biondi, no, atletici, si mette invece con Naomi Campbell. Ma no, ma che Naomi Campbell? Sceglie un'allieva mora. Ah. È come se non bastasse, anche ebrea, pure. Che si chiama Hannah Arendt. Ah. E che in seguito farà ripetutamente epoche con lui, facendosi sbattere dentro le teorie di Husserl sino al midollo. E come? Cioè, in che maniera? Come, scusa, che maniera? La sbatteva, non capisco. Allora, adesso te lo spiego. Ma purtroppo il nostro tempo è scaduto. Allora noi ne parleremo forse domani alle 15 come sempre su Radio 2. Mi raccomando, nel frattempo, belle teste, godetevi la vita. Radio2pod.rai.it Radio 2 è davvero imbarazzata nel presentare Così parlò Zap Mangusta, storia della filosofia liofilizzata in pillole per uso strettamente personale. Il filosofo di oggi è uno dei pensatori più amati e odiati dell'intero Novecento. Il suo nome è Martin Heidegger. Seconda parte. Visioni possibili, settimo sigillo Ingmar Bergman, vi presento Joe Black, Martin Brest, gente comune Robert Redford, turista per caso Lores Kasdan, la merlettaia Claude Goretta, le invasioni barbariche Denis Arcand. Ed è così che nel 1925, fenomenologicamente, Martin del Baden Heidegger, pensatore quasi quarantenne e pluripadre, si ficca con una studentessa diciottenne che in seguito diventerà la sua musa e che dopo la guerra pubblicherà Le origini del totalitarismo, un libro che assimilando il nazismo al bolscevismo otterrà ovunque uno strepitoso successo. Sta storia comincia a piacermi, lo sai Mangusta? In fondo lui aveva solo 20 anni più di lei, mica 50, dai. Una sola cosa mi viene da chiederti. Dimmi. Ma questo Heidegger, quando pensava? Nel tempo libero. Nel 1927 infatti pubblica la prima parte del celebre Essere e Tempo, Sein und Zeit, con dedica sul frontespizio al suo adorato e unico maestro Husserl. Beh, carino, dai, a me commuove sempre quando un allievo dedica la sua opera al suo caro maestro, eh? Ecco, quel libro segna l'inizio di una nuova epoca nella filosofia contemporanea. Addirittura? Sì, anche se qualcuno dice anche una battuta d'arresto nei confronti della filosofia comprensibile. E perché? Perché Heidegger in quest'opera monumentale chiede all'uomo chi è, all'essere dov'è e al futuro che accidenti vuole. E gli rispondono? No, e allora lui rinvia tutte le risposte alla seconda parte dell'opera, che però non scriverà mai. Ma che paraculo, un vero maestro del marketing. Mi sa che ha ispirato qualcuno che so io, Ma quanti anni aveva questa Anna Arendt? Di più, era maggiorenne. Ah, peccato. Mentre le ideologie si estinguono e le coscienze si disperdono, insieme ai muri crollano le verità di comodo. Così nel 1928 Martin Pensatore Heidegger, su proposta del suo stesso maestro Husserl, occupa la cattedra del Re Triste dei Fenomeni nella prestigiosa Università di Friburgo. Quindi sostituisce Husserl alla cattedra di filosofia? Sì, sino a quando nel 1930, un po' a sorpresa se vogliamo, ma nemmeno poi troppo, in una conferenza sull'essenza della verità... Beh, che fa? Il suo braccio destro scatta orizzontalmente in avanti, lasciando così trapelare le sue incontrollabili simpatie per il Führer. Come il dottor Stranamore di Kubrick. Quindi, per non dare adito a equivoci, che fa? Si compra un maxi cappotto scuro in tinta con la scodella salvacapelli nella stessa tinta e si iscrive al partito nazionalsocialista. Ma non l'avrà mica fatto per fare carriera? No, ma dopo 20 giorni diventa rettore dell'università. Hai capito? E l'inaugura con un discorso sull'autoaffermazione dell'università tedesca, in cui esorta gli studenti teutonici a non trovarsi un lavoro qualsiasi, ma a impegnarsi nei compiti sociali che attendono la collettività dei camerati. Complimenti, no? Complimenti. Viva la faccia del pensiero libero e dell'essere spirituale. Dell'essere spirituale soprattutto. Sì. Hai detto bene. Cosa succede? Che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero? Chi resta in casa, chi se ne va in strada? Che cosa conta? Che cosa è vero? Mangusta, sono curiosa, dimmi, ma questo Martin Pensatore, come primo provvedimento, che fa? Svastica i muri, studenti infacottati in cappotti lunghi di pelle nera? No, per prima cosa firma la circolare con cui vieta l'ingresso in facoltà al suo amato maestro, amico e mentore Husserl, proprio in quanto docente ebreo. Accidenti, quando si dice la riconoscenza, Tuttavia Heidegger non è un caino completo e quando nel 1934 si dimetterà dalla carica dirà: non potevo avallare l'espulsione di due docenti non nazisti. Ed è vero? Balle. Secondo gli storici lui lo fa perché i suoi progetti di leadership culturale non coincidono più con quelli delle autorità naziste. Beh, però poi alla fine ha avuto coraggio, in fondo è lecito cambiare idee politiche. Certo. Guardafini, Casini, Guzzanti, Barbareschi, Scilipoti. Tesoro, guarda che abbiamo solo 15 minuti a trasmissione, se li nomini tutti domani siamo ancora qua. Hai ragione. Comunque, da quel momento in poi Heidegger abbandona ogni velleità politica e si rifugia in una baita nella foresta nera. E abbandona pure l'insegnamento? No, continua l'attività didattica nei confronti dei suoi allievi motivi, e in particolare quella, diciamo, specialistica nei confronti di Hannah Arendt. Ma non ci posso credere, ma lei era ebrea! A questo proposito, in uno scritto del 1935, Introduzione alla metafisica, che qualche maligno riteneva si riferisse all'intenso rapporto che legava Heidegger alla sua musa, che no? Perla di rara perfidia, no, che sei mai lo dicevano. Heidegger assume nei confronti del nazismo un atteggiamento ambiguo e si dedica a riflessioni più intimiste. Scommetto che al regime le sue opere non piacciono più, vero? Esatto, lo sospettano di nichilismo, ma guarda un po', e non gli fanno più pubblicare nemmeno un libro. E ben gli sta, perché faceva il fenomenologo, si aspettasse sconvolgimenti fenomenali. Allora lui sta a fare il fenomeno. La gente non ha voglia di pensare cose negative, la gente vuol godersi in pace le vacanze estive. Ci siamo rotti il pacco di sentire che va tutto male, della valanga di brutte notizie al telegiornale. C'è l'Italia paese di santi, pochi idraulici, troppe badanti. C'è l'Italia paese della libertà, egalité e del gioca giue. Alla fine della guerra, nel 1946, poi le forze d'occupazione, memory del suo irreprensibile passato, vietano ad Heidegger di svolgere qualsiasi tipo di insegnamento. Fregato di qua e fregato di là, questo è il destino degli ambigui. Non sempre, tesoro, non sempre. Ma Heidegger, in seguito a questa decisione, subisce un crollo psicofisico dal quale si riprende grazie alle cure di uno psicologo, nonostante questi si ispirasse al suo pensiero. E che fa? Che fa l'infame? Dal 1946 al 1947 traduce Lao Tzu in tedesco. Vabbè, poi? E poi dal 48 si dedica alla pubblicazione di tutte le opere successive ad essere tempo, sino a quando, almeno nell'immediato dopoguerra, alcuni suoi importanti allievi, tra cui Herbert Marcuse e la stessa Hannah Arendt, lo implorano di rinnegare con convinzione il suo passato nazista, dato che il suo atteggiamento veniva ormai considerato il tradimento di Heidegger alla cultura occidentale. E lo era stato, scusa, ma perché i suoi allievi lo difendono? Lo difendono per un motivo nobile. Ogni tanto, lo so, esistono questi motivi, sembrerà strano. I suoi allievi dicevano che i suoi comportamenti ambigui minacciavano il grande valore filosofico della sua opera Essere Tempo, che invece rimaneva grandissimo. E il paraculo si pente e poi vissero tutti felici e contenti come nelle migliori fiabe filosofiche. Ma infatti queste fiabe filosofiche non finiscono così, tesoro, no? Come il miglior Messi del Barcellona, sì. Lui dribbla tutte le domande più scottanti sulla sua simpatia nazista, dichiara di non essere mai stato antisemita ed elenca uno dopo l'altro i favori che ha accordato agli studenti ebrei. Un vero serpente, eh? E ce l'ha il buon gusto di omettere Hannah Arendt tra i beneficiari? Era un serpente, sì, forse, ma un serpente gentiluomo. Ma meno male, almeno questo. Un uomo che non sa dire addio, ti dice io vivo a modo mio, più del coraggio ma non lo sai, sparso nel buio della città. Che vita però che ha avuto sto tipo, eh? Non è mica finita qui, no. A sorpresa esprime il suo disprezzo per la società americana, che lui dice anteponeva i valori materiali a quelli spirituali. Si vede che Martin Pensatore aveva confuso il nazismo con la meditazione trascendentale. Appunto, il resto della sua incasinatissima vita Heidegger lo passa a denazificarsi e a ricostruire il proprio operato filosofico con l'aiuto della moglie, che qui c'è scritto era nazista e pure razzista. Pure, sino a che Martino va a isolarsi in una baita, di nuovo nella foresta nera, e orfano delle piacevoli distrazioni di Hannah Arendt, finalmente si mette solo a scrivere. Oh, lo lasciano a stecchetto, così impara a fare il furbo e finisce così. No, non finisce così. Nel 1952 viene reintegrato all'insegnamento con la qualifica di professore emerito. E lì che succede ancora? Da lì in poi tiene conferenze, seminari, pubblica numerosi scritti, sinché nel 1976... e va a depositare finalmente il suo Essere per la morte, come diceva sempre, che era una sua frase ricorrente, tra le braccia della medesima e stessa. Tutta la cultura occidentale lo rimuove dalla sua coscienza collettiva. Ma manco per niente, tutt'altro, no. Heidegger verrà considerato da molti come uno dei più grandi pensatori del Novecento, se non addirittura il massimo filosofo del secolo. A dimostrazione di quanto i 100 anni appena trascorsi siano stati davvero incasinati, e non solo dal punto di vista filosofico. Molti lo hanno definito infatti un secolo scemo, il Novecento, dominato dal gelo della tecnica e dall'avvento del dio denaro. Ah, così hanno detto? Sì, hanno detto proprio così. Speriamo che questo nuovo secolo sia diverso. Speriamolo, certo, sì. Speriamolo. Anche se, a giudicare da questi primi 11 anni. Tu dici, Dico. Ma dai, un po' di ottimismo, vai, ci prendiamo lunedì, come sempre, mi raccomando, belle teste, nel frattempo. Nel weekend, godetevi la vita. Se volete scriverci qualcosa, fate volteggiare i vostri polpastrelli su zapmangusta@rai.it. Se invece volete scaricare il podcast o entrare nel blog, zapmangusta.rai.it. Radio2pod.rai.it.